Vi ricordate Laura, l'assistente parlamentare che lavorava in nero alla Camera dei Deputati per uno dei nostri politici? Ci ha raccontato la sua storia ieri, ma non voleva usare il suo nome, la sua voce. Ora altri collaboratori in nero di senatori e deputati hanno preso coraggio. In quattro da ieri hanno parlato con Radio 24. Ecco una testimonianza. Ho lavorato in nero e la cosa che mi faceva specie era per una deputata della sinistra. Circa 3 anni, sabato e domenica compresi, perché quando fai l'ufficio stampa non hai sosta. Quanto prendevo io a nero? Non me lo ricordo, ma comunque era una cifra praticamente ridicola. E gli assistenti che di tanto in tanto denunciavano la loro situazione di lavoratori pagati in nero perdevano il posto, a volte perfino insultati, minacciati, tanto che ci sono state alcune poche condanne celebri, come quella di Gabriella Carlucci, che è stata trascinata dalla portaborse davanti al giudice del lavoro e condannata a risarcirle 10.000 euro. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.